Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro sul Nord-Est, Nord-Est 2011, rapporto sulla società e l'economia, curato da Daniele Marini. Buonasera Daniele Marini. Buonasera a lei. Daniele Marini è professore di sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università di Padova e direttore scientifico della Fondazione Nord-Est. Questo libro raccoglie, come fa ogni anno, il rapporto che la Fondazione Nord-Est elabora sullo stato dell'arte, sullo stato dell'economia appunto del Nord-Est, in una prospettiva peraltro molto ampia, perché è un rapporto che tiene conto anche dello scenario esterno e quindi è anche molto utile per vedere in prospettiva qual è la realtà dell'economia italiana, di cui il Nord-Est è uno degli elementi principali, ma anche la realtà dell'economia internazionale. Ma allora cominciamo, Daniele Marini, a vedere adesso come sta il Nord-Est. Beh, il Nord-Est sta bene o male come sta il resto d'Italia, anche se comunque anche in questi anni ha manifestato sempre delle performance, diciamo così, leggermente positive, più positive rispetto al resto dell'Italia. Certo, non corre più come correva quando era denominato la locomotiva d'Italia, però diciamo riesce ancora a offrire delle performance leggermente più positive, e questo è dovuto soprattutto, anzi vorrei dire quasi in modo esclusivo, dal fatto che questo territorio ha un'economia che è fortemente proiettata sui mercati esteri. Considerato che la domanda interna continua a essere molto piatta, questa è la vera ancora di salvezza. Ecco, in questo senso il Nord-Est è riuscito a trovare anche queste nuove opportunità di sbocco verso i mercati che sono chiamati emergenti, ma che ormai sono emersi da tempo, come la Cina, l'India, il Brasile? Sì, queste sono le, diciamo così, le nuove direzioni, tenendo presente che comunque il mercato tedesco, per esempio, in particolare per il settore della meccanica, continua a rimanere il mercato prevalente. E fra l'altro c'è da considerare che molte imprese che ormai si sono specializzate in prodotti o servizi che sono utili alle grandi imprese tedesche vengono poi trainate da queste sui mercati appunto più lontani, come quello della Cina, dell'India piuttosto che dello stesso Brasile. Ma non dobbiamo dimenticare che oltre a questi paesi c'è anche quella che viene definita un'economia di prossimità per il Nord-Est, che sono i paesi dell'est europeo, che in questi anni, pensiamo per esempio anche solo alla Polonia, perché la Romania è già, diciamo così, un territorio colonizzato fra virgolette dal sistema economico nordestino, ecco, c'è un'economia dei paesi dell'est che è in crescita e che vede appunto le imprese di questo territorio, favorite geograficamente dalla vicinanza, essere particolarmente presenti. Quindi cercano di cogliere le opportunità. Ecco, il tessuto del Nord-Est, il suo capitolo in questo complesso rapporto che è fatto di molte mani, molti interventi, il suo capitolo, Daniele Marini, si intitola Il tessuto del Nord-Est, rigenerazioni e strappi. Perché rigenerazioni e strappi? Perché la crisi lascia sul tessuto nordestino, tessuto socio-economico, delle ferite profonde che ne segnano un grande cambiamento. Non è solo l'economia ad essere cambiata, cambia anche la popolazione. Pensiamo solo al fatto che questo è un territorio ormai classicamente multietnico. È un territorio che ha bisogno, piaccia o non piaccia, di immigrati, perché altrimenti la struttura della popolazione non starebbe insieme. Ecco, quindi ci sono una serie di strappi a questo tessuto che la crisi ha accelerato. Però, come per tutti i tessuti, anche quello epidermico, agli strappi seguono anche, diciamo così, delle rigenerazioni, le cicatrici si formano e cambiano anche la nostra pelle, e quindi in questo senso il tentativo era quello appunto di provare a mettere in luce in che modo il Nord-Est si sta riqualificando, sta cambiando e sta guardando appunto anche alle proprie prospettive future. Ecco, in un certo senso è anche un po' un modello per l'Italia, un Nord-Est che possiamo dire si riqualifica, punta un po' più in alto, ha una ricerca di un'istruzione superiore, non si ferma più al manifatturiero semplice, ma ha un'innovazione più basata sulla ricerca. Possiamo dire che il Nord-Est è una faccia della modernità dell'Italia? Beh, diciamo che ci sta tentando, ecco, anche se in questi decenni non possiamo non ricordare come molti temi, molti fenomeni che hanno preso vita esattamente su questo territorio poi sono diventati diciamo patrimonio nazionale. Ne citiamo due. Uno, per esempio, è il tema del federalismo, che nasce esattamente in questi contesti e poi dopo un po' di anni diventa tema di dibattito nazionale. Oppure pensiamo alle stesse piccole e medie imprese, ai distretti industriali, alle multinazionali tascabili che trovano appunto esattamente in questo contesto il loro elemento, diciamo così, di nascita e di scoperta. Quindi in questo senso il Nord-Est continua a essere ancora oggi, diciamo così, un laboratorio. Anche perché è una realtà in cui convivono grandi imprese, ormai grandi e grandissime imprese, pensiamo a Luxottica o Benetton, e è ancora un tessuto molto diffuso di imprenditoria che magari fa capo anche a queste grandi imprese, ma che riesce anche ad avere un proprio mercato, una propria possibilità di crescita. E anche in questo rapporto costruttivo tra due modelli, che non sono ovviamente alternativi, ma complementari di economia, che il Nord-Est può ritrovare una prospettiva di crescita? Sì, anzi direi di più, come dimostra appunto anche nel rapporto, dovremmo anche provare a cambiare ottica, diciamo così, con la quale guardiamo il sistema produttivo. Cito pochi numeri per rendere l'idea. Ogni media impresa su questo territorio ha rapporti consolidati con altri 274 che definiamo subfornitori, ma in realtà è una categorizzazione sbagliata. Quindi ogni media impresa tiene rapporti appunto con una miriade di piccole imprese, e se teniamo presente che ogni prodotto fatto da questa media impresa, l'80% è fatto dalle imprese più grandi, dalle imprese più piccole, certo. Possiamo capire bene quale sia la reticolarità del sistema produttivo, che si tiene insieme anche se da un punto di vista statistico ci diciamo che sono imprese piccole. In realtà sono inserite in filiere o catene globali del valore, che fa sì che un'impresa, magari anche di dimensioni contenute, a patto che abbia fatto innovazione o investimenti nei propri servizi, ecco, pur mantenendosi, diciamo così, di dimensioni contenute, può scendere, può entrare nel mercato internazionale. Per dirla con una battuta, si può diventare grandi senza diventare grossi. Ecco, proprio perché forse bisogna uscire dalla logica contabile con cui si guarda all'impresa, la logica, possiamo dire, burocratico-fiscale, per cui l'impresa è quell'unità che ha il suo bilancio e una sua identità nella realtà appunto del bilancio civile, ma l'impresa è anche una realtà fatta di rapporti con l'esterno, che poi fanno maturare questa identità in un insieme, in una rete complessiva, che è resa più facile attualmente anche dalle potenzialità delle comunicazioni, dalle capacità di sviluppare dei processi che non sono solo fisici ma sono anche virtuali. Quindi in questo senso. Assolutamente sì, chiedo scusa per l'interruzione, è solo un elemento in più. Se noi andiamo a domandare alle imprese con chi fanno l'innovazione, si vede come quasi il 60% delle imprese nordestine faccia innovazione con i propri fornitori. E quindi questo vuol dire che un processo di innovazione non coinvolge solo la singola impresa, ma coinvolge la rete delle imprese. Certo, quindi la rete delle imprese che risponde in un qualche modo come un organismo vivo, un organismo capace appunto di cogliere queste opportunità, senza dimenticare una realtà di fondo che per esempio è sottolineata da Andrea Tomat nella introduzione, nella premessa, cioè il fatto che ci sono anche nuovi obiettivi oltre quelli della crescita, di una crescita diciamo così numerica, quantitativa, obiettivi di qualità, la qualità della vita, l'ambiente, la cultura, e sono elementi che stanno entrando anche nelle logiche dell'economia del Nord-Est. Daniele Marini? Assolutamente sì, prova ne sia per esempio il patto per lo sviluppo che hanno sottoscritto gli industriali di Treviso assieme alle tre organizzazioni sindacali sempre della provincia di Treviso, dove cioè all'interno di questo patto per lo sviluppo, che non a caso si chiama in questi termini, non ci sono solo elementi di natura sindacale, quindi il salario, la possibilità di regolare diversamente rispetto al contratto nazionale gli straordinari piuttosto che i processi di innovazione, ma guardano anche al contesto esterno, quindi a impegnarsi reciprocamente a investire nello sviluppo del territorio nel suo complesso, perché ormai la sfida non la vince una singola impresa, la sfida diciamo alla competitività, ma viene vinta se tutto il sistema territoriale che si mobilita, e quindi anche in questo senso l'attenzione all'ambiente, l'attenzione agli aspetti qualitativi della vita diventa fondamentale. Quindi il Nord-Est può fare la sua parte nell'ambito della necessità che ha il nostro paese di crescere, e dovrebbe fare la sua parte anche il paese, lo ricorda appunto il presidente della Fondazione Nord-Est Andrea Toba dell'introduzione, per assicurare un buon funzionamento delle imprese sarebbe già una conquista se le istituzioni riuscissero a creare un ambiente amministrativo, fiscale, giuridico, infrastrutturale degno di un paese normale, che ci auguriamo tutti che possa diventare l'Italia. Io ringrazio Daniele Marini, direttore della Fondazione Nord-Est, che ci ha presentato questo rapporto sulla società e l'economia, Nord-Est 2011, edito da Marsiglio. Così come ringrazio Carmelo Lauricella in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con voi tutti è per sabato prossimo.